tutti per mano, non trovo le parole per descrivere emozioni, i battiti del cuore. Camminiamo nella notte, il riflesso della luna illumina il sorriso, una lacrima di gioia scende sul mio viso, dolcemente ti prendo per mano. Per raccontare il profumo della pelle, le corse in riva al mare, la bellezza dei tuoi occhi, seduti sulla sabbia, abbracciati stretti stretti, fuggiamo dalla noia, dai soliti dispetti, ti bacio, tu mi baci, intanto corre il tempo, nell'alba nasce il sole, scolorano le stelle, camminiamo nella spiaggia, i raggi del sole riflettono il sorriso, una lacrima di gioia scende sul mio viso, dolcemente ti prendo la mano. Sogno di un amore, non ci son discorsi per raccontare il la pelle, le corse in riva al mare, la bellezza dei tuoi occhi, la tua immagine nel cuore resterà per sempre, una vita troppo corta per questi momenti, noi per sempre uniti, ancora mi imbaratto pensando le tue gambe, le scarpe con il tacco.